L'idea è quella di far scoprire una città che è permanentemente aperta con il suo tesoro artistico. In piccolo la città di Bologna è riuscita a creare quello che noi diciamo sempre che l'Italia dovrebbe fare, puntare sul suo patrimonio e su questo costruire un'identità specifica diversa da tutte le altre fiere del mondo ed essere orgogliosa di questa specificità e di questa identità culturale. E quindi queste iniziative collaterali rispetto alla fiera quanto dureranno e in che cosa consistono? Alcune sono mostre temporanee, in alcuni casi ci sono delle performance o comunque degli eventi che hanno una durata limitata, ma tutte sono finalizzate alla scoperta di luoghi che invece sono aperti tutto l'anno. Questa è la specificità, quindi l'idea è che siano incursioni del contemporaneo che trova il suo teatro ideale e al tempo stesso viene anche a illuminare un patrimonio a volte dimenticato ingiustamente.